505 aringa ingentilita. Signori bevitori, a questa aringa, clupea arengus, posate la forchetta, non è fatta per voi che avete il gusto grossolano. Ordinariamente si ricerca l'aringa femmina come più appariscente per la copiosa quantità delle uova, ma è da preferirsi il maschio che coi suoi spermatofori lattiginosi, ossia borsa spermatica, è più delicato. Maschio o femmina che sia, aprite l'aringa dalla parte della schiena, gettatene via la testa e spianatela, poi mettetela in infusione nel latte bollente e lasciatevela dalle 8 alle 10 ore. Sarebbe bene che in questo spazio di tempo si cambiasse il latte una volta. Dopo averla asciugata con un canovaccio, cuocetela in gratella come l'aringa comune e conditela con olio e pochissimo aceto o, se più vi piace, con olio e agro di limone. C'è anche quest'altra maniera per togliere all'aringa il sapore troppo salato. Mettetela al fuoco con acqua ghiaccia, fatela bollire per 3 minuti, poi tenetela per un momento nell'acqua fresca, asciugatela, gettatene via la testa, apritela dalla parte della schiena e conditela come la precedente. La Clupea arengus è il genere tipico dell'importantissima famiglia dei clupeini, la quale comprende, oltre alle aringhe, le salacche, i salacchini, le acciughe, le sarde e la Losa vulgaris o clupea comune, chiamata cheppia in Toscana. Questa in primavera, rimontando i fiumi per deporre le uova, viene pescata anche in Arno a Firenze. Le aringhe vivono in numero sterminato nelle profondità dei mari dell'estrema Europa e si fanno vedere alla superficie solo al tempo della riproduzione, cioè nei mesi di aprile, maggio e giugno, e dopo deposte le uova scompariscono nelle profondità della loro abituale dimora. Si vede il mare talora per diverse miglia di seguito luccicante e l'acqua divenir torbida per la fregola e per le squame che si distaccano. In Inghilterra arrivano da luglio a settembre e la pesca, che si fa con reti circolari, ne è sì abbondante sulle spiagge di Yarmouth che talvolta se ne sono preparate fino a 500.000 barili.